Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Uno zerbino che ti dice quanto pesi. Il tuo peso è... Scendi, scendi! No! Per te ci sono verdure al vapore e gallette di riso. Aspetta un momento. Ehi, ma io queste le ho sempre usate come sottobicchieri. Beh, sono solo 35 calorie l'una. Pronto? Pronto? Pronto, Gusto? Dove sei? E sono qua, buongiorno a voi da Nicoletta. Parliamo di dieta. Ci si mette a dieta e poi cammin facendo si scopre con piacere che qualcosa è cambiato. La taglia, ad esempio. E a proposito di vestiti da indossare, eccoli là, i suoi jeans attillati. I jeans che ogni donna conserva nella vana speranza di riuscire un giorno a entrarci di nuovo. Ragazze, questo è un miracolo! Questi sono i miei vecchi jeans attillati. Non riuscivo ad entrarci dall'85. Non ci posso credere, sono dentro i miei jeans attillati. Ma oltre ai chili, care amiche, c'è di più. C'è chi mettendosi a dieta ritrova energia, chi si scopre più bella, con la pelle più luminosa, l'apparenza più giovane, chi torna a dormire o riesce almeno a dormire un po' meglio, chi si libera dagli sbalzi di umori e ritrova il buon umore, chi riscopre il piacere di fare l'amore. Piccoli e grandi segnali che confermano che siamo quello che mangiamo e che il nostro stile alimentare è la chiave del nostro benessere. Insomma, oltre ai chili c'è di più, molto di più. E questo è il principio, direi il pensiero guida di Mangia con me, di mostrare il legame molto stretto tra cibo e salute, intesa non come assenza di malattia, ma proprio come benessere fisico, mentale, psicologico, emotivo, sociale. Da quando poi, innamorati o no, ho capito che eri come ti immaginavo e che eri proprio te. Mi fai stare bene. Buongiorno al dottor Filippo Ongaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Dottore, anche lei con i suoi consigli ci ha fatto stare bene, in alcuni casi meglio, e soprattutto l'avventura di Mangia con me ci ha permesso di guardare il cibo anche sotto un'altra luce, in un altro modo. Ma in effetti il cibo lo possiamo considerare informazione, possiamo pensare ad una radio, visto che siamo in onda, se mando dei segnali chiari e forti è possibile sintonizzarsi e si comprende l'informazione che viene trasmessa, se invece il segnale è debole si sente solo un rumore che risulta praticamente incomprensibile. E il cibo giusto è davvero un segnale forte e chiaro per l'organismo che invia un'informazione che è vitale per far funzionare le cellule e gli organi. Quindi in sostanza cambiare stile alimentare è una sorta di allenamento che risintonizza l'organismo e ci insegna a sfruttare le informazioni che vengono dall'esterno e che sono contenute nel cibo. Allora invito i nostri ascoltatori a intervenire 800 24 00 24, fatevi sentire forte e chiare attraverso il nostro numero verde, ma potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter o mandarci una mail o un messaggio al 349 238 6666. Dottor Ongaro, cambiare stile alimentare è un progetto che possiamo anche paragonare come una sorta di allenamento. Sì, infatti è sostanzialmente quello che dicevo prima, cioè il fatto di permettere all'organismo di abituarsi ai segnali che vengono dall'esterno, che possono essere segnali alimentari corretti o sbagliati. L'organismo purtroppo, per fortuna, si abitua un po' a tutto, quindi si abitua anche a gestire segnali sbagliati per lunghi periodi. Certo è che se diamo i segnali giusti si esalta la nostra salute e la funzionalità a 360 gradi. E noi lo scopriamo proprio quando decidiamo di cambiare stile alimentare, dottor Ongaro. Non è solo un problema di peso, di diminuire di peso, ma ci accorgiamo che qualcosa cambia, stiamo meglio e sono tanti i segnali che ci arrivano ed è quelli che vorrei proprio chiedere agli ascoltatori da casa. Cambiando il vostro stile alimentare, avete trovato quale cambiamento? Come siete cambiati? Dottor Ongaro. Diciamo che il cambiamento dello stile alimentare io lo vedo anche nell'esperienza non solo personale ma con i pazienti, tocca veramente tutte le sfere, insomma, dai livelli di energia, la qualità del sonno, la qualità della pelle, il desiderio sessuale, la prestazione muscolare, quindi sono davvero l'umore, quindi sono davvero pochi i settori della nostra salute che non vengono in qualche modo toccati, contaminati da questo cambiamento. Sì, che non vuol dire, Nicoletta, come abbiamo detto tante volte, non vuol dire che con il cibo si guarisce tutto, assolutamente, no. Ma senza lo stile alimentare corretto qualsiasi cura risulta più difficile. Quindi invitiamo anche chi in questo momento non ha cambiato e non ha desiderio di cambiare lo stile alimentare, ma di segnalarci magari qualche eventuale problema che ostacola il benessere, e con il dottor Ongoro, insieme ai nostri esperti, proveremo a dare dei suggerimenti per capire se e come, attraverso magari piccoli cambiamenti nello stile alimentare, si possono risolvere quei problemi che ostacolano il nostro benessere. Dottor Ongoro, ce la facciamo? Assolutamente, ce l'abbiamo fatta con tanti dei partecipanti a Mangia con me, quindi. Questo mi piace molto. Allora, 800 24 00 24, allenatevi con noi, e in linea con noi abbiamo il professor Stefano Tirelli. Buongiorno professore. Buongiorno Nicolette, buongiorno a dottor Ongoro e a tutti gli ascoltatori. Sì, in effetti stavo ascoltando proprio le parole sempre interessanti del dottor Ongoro e anche le tue, Nicoletta, e penso che quando parliamo di cambiamento in termini di scelta nella vita, anche alimentare, di alimentarci molto meglio, dobbiamo ricordarci quello che è il significato stesso della parola metabolismo. Metabolismo arriva dal greco, che vuol dire proprio cambiare, cambiamento. Allora, io credo che ogni qualvolta noi iniziamo a decidere di cambiare sia nell'aspetto alimentare sia nell'aspetto dell'allenamento, perché tra loro sono due elementi estremamente correlati, possiamo sicuramente ritrovare una parte della nostra percezione corporea, fisica, sensoriale, di tutte le attività funzionali che corrispondono a qualcosa di positivo. Una bella, secondo me, interessante analisi del concetto di metabolismo è quello che noi sappiamo tutti che è dato da due azioni, dal catabolismo e dall'anabolismo, cioè diciamo distruggere e costruire, cosa che ritroviamo anche nella medicina cinese, perché lo yin e lo yang sono proprio i due concetti che tra loro sembrano opposti ma sono complementari. E allora anche nell'alimentazione, così come nell'allenamento, io so che apparentemente distruggo perché vado a sciogliere delle sostanze a livello nutritizio, oppure nell'allenamento apparentemente io distruggo delle energie, ma in realtà le sto costruendo, perché provoco una reazione esattamente contraria ma complementare, ed è quello che noi sentiamo ogni qualvolta ci alleniamo. Io credo che tra l'altro sia nella decisione di cambiare un certo tipo di stile di vita, nell'allenamento e nell'alimentazione, in realtà noi abbiamo l'opportunità di aumentare la nostra autostima. Perché? Perché ogni qualvolta, appunto, io raggiungo degli obiettivi, può essere il sentirmi più tonico, dimagrire, pesare meno, oppure sentirmi più resistente, io ho il senso della vittoria. Cioè, la vittoria non è solo nella vita la grande sfida in assoluto che si è riusciti a conquistare, ma sono quelle piccole vittorie, certo, quotidiane che ci danno veramente, aumentano l'autostima. Io credo quindi che tutto ciò sia fonte e necessario per il cibo della nostra mente, il cibo in generale della vita. E abbiamo Antonella che ci chiama da Roma. Buongiorno Antonella, benvenuta. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere al dottor Ongoro, del quale ho letto il libro e quindi ho preso molti spunti per cambiare un po' la mia alimentazione, perché avevo sempre problemi di pancia molto gonfia, anche se non ingrasso proprio, però la pancia è il mio punto debole. Sì. E devo dire che ho cominciato a cambiare, a variare, e soprattutto a diminuire il pane e la pasta nella mia alimentazione. Ed è andato meglio. Cosa ha avuto di vantaggio cambiando? Degli ottimi risultati per quanto riguarda soprattutto la pancia, e quindi non mi sento più quel senso di pesantezza, è proprio il mio giro vita. È una cosa che faccio quotidianamente, come lui dice anche, di bere la mattina dell'acqua con un limone spremuto. Questo lo faccio anch'io, Antonella. Però io volevo chiedere al dottore, perché mi rimane sempre questo dubbio e questa paura. Andiamo alla domanda. Volevo sapere, ma questo limone tutti i giorni, per chi soffre o ha sofferto anche di ulcera o gastrite, è un problema? Dottor Ongoro, iniziamo a rispondere subito ad Antonella e poi torniamo sul pane e la pasta. Direi, Antonella, che qui vale molto anche l'esperienza personale. Mi pare di capire che non abbia avuto nessun effetto collaterale da questa assunzione. In generale la mia opinione è no, cioè non c'è una connessione tra l'assunzione di questo tipo di agrume, in questo caso, e l'emergere di una patologia come la gastrite. Certo è che ci sono anche molte reazioni soggettive a qualsiasi cambio alimentare, quindi è bene anche ascoltarsi e adeguare, diciamo, la propria reazione anche il tipo di alimentazione che ricordiamo si adotta. Dottor Ongaro, con il limone c'è una dieta anche del limone per i calcoli renali. Sì, sì, assolutamente. Quindi insomma è un agrume, come non ci sono alimenti miracolosi, però sicuramente il limone vanta numerose virtù. Pane e pasta si riduce e il girovita ne guadagna. Questa è una relazione conosciuta a tutti, ma dottor Ongaro, come mai? Ma direi che questo ha molto a che fare con il discorso della regolazione delle glicemie e dell'insulina, di cui abbiamo parlato molto spesso, cioè un'esagerazione di cereali e di carboidrati, diciamo raffinati, non integrali, provoca un aumento della produzione di insulina, che è uno dei fattori principali che ci fa accumulare grasso, soprattutto attorno all'addome. Quindi non è necessario escludere questi alimenti che fanno parte della nostra tradizione anche mediterranea, ma sicuramente ridurne un po' la quantità e soprattutto optare per le versioni integrali, che hanno un effetto metabolico completamente diverso anche a parità di calorie. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Ippocrate. Quindi se il nostro stile alimentare può essere responsabile di alcuni disturbi, la bella notizia è che modificando il nostro stile alimentare possiamo recuperare e ritrovare il benessere. Quindi l'invito di oggi è: raccontateci quali cambiamenti avete notato mettendovi a dieta. Non mi piace usare questo termine, ma rende cambiamenti positivi e anche negativi. Che cosa è cambiato? In che cosa vi siete sentiti diversi? Ma diteci allo stesso tempo se c'è qualcosa che disturba, ostacola il vostro benessere. Con l'aiuto dei nostri esperti proveremo a darvi indicazioni utili e semplici, dottor Ongaro, perché sono quelle che fanno la differenza. La nostra amica diceva: bevo l'acqua con il limone alla mattina. Non dobbiamo stravolgere il nostro stile alimentare, dobbiamo riprendere il passo. Dottore. Sì, dobbiamo riprendere il passo e soprattutto dobbiamo renderci conto di quanto l'alimentazione tipica, un po' inconsapevole del giorno d'oggi, ci ha portato in qualche modo lontano da quello che è l'alimentazione naturale, genuina, che il nostro corpo invece esige e richiede. Allora, a certe volte i sintomi che emergono sono proprio delle richieste dell'organismo di tornare indietro a prendere dagli alimenti ciò che veramente di cui necessita. E devo dire che in questo senso vanno anche approcciati i cambiamenti con una certa gradualità, perché l'alimentazione, che è un fatto che ci coinvolge tutti più volte al giorno e che spesso è in un certo modo per decadi e decadi, è un po', no, un trauma cambiarla immediatamente di colpo. Quindi, anche tornando al discorso che faceva Antonella, a lei è andato bene il cambiamento dello stile alimentare, ha prodotto soltanto benefici. Alle volte non è così, bisogna accettare di ascoltare il proprio organismo. Certo, oggi possiamo anche lamentarci perché molte diete ad esempio falliscono, i chili non si perdono come quanti ne vorremmo, oppure si recuperano rapidamente e l'umore va giù. Quindi aspettiamo, dottor Ongaro, cambiamenti positivi e cambiamenti negativi. E nell'attesa delle chiamate dei nostri ascoltatori, noi abbiamo chiamato Fabio, il nostro, professor Tirelli, dottor Ongaro, Fabio, il settimo partecipante dei magnifici 8 della seconda edizione di Mangia con me. Buongiorno a tutti, sono Fabio, ho 25 anni e vivo in provincia di Biella. Mi piace fare tante cose nella vita, tra cui mangiare. Molte volte però mi accorgo che mangio troppo velocemente, perché quando vedo il tavolo e il mangiare non riesco assolutamente a contenermi. Mi piacerebbe mangiare con voi, perché vorrei realizzare questo mio piccolo sogno e cercare di apprezzarmi di più. Negli anni sono sempre stato leggermente sovrappeso, ma ho sempre avuto tanta voglia di dimagrire un pochino, con pochi risultati purtroppo. Eccolo qui, Fabio. Ciao. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Benvenuto. Li hai persi quei chili? Li ho persi. Sono molto felice, veramente, ne ho persi abbastanza. Diciamo che sono passato da un 83 attualmente a un 76,5, molto molto felice. Sei molto felice. Ricordo agli amici da casa che Fabio era il concorrente della torta di nocciole. Giustissimo. Senti, di chili ne hai perso? Sicuramente ti sei anche mangiato qualche torta di nocciola della mamma, ma che cosa hai guadagnato? Ma, oltre diciamo ai chili? Che ho guadagnato sicuramente autostima, prima di tutto, perché è una cosa che ti viene di conseguenza. Seconda cosa, ho guadagnato sicuramente molta più energia giornaliera, nel senso che prima magari alle 9:30 della sera si iniziava a sentire la stanchezza, un appesantimento. Adesso io alle 11 di sera sono fresco come una roba. Fresca. Vabbè che sono giovane, però è un cambiamento incredibile, veramente. Senti, dicevamo che a volte bastano piccoli cambiamenti per ottenere grandi risultati. Che cosa mangi oggi di diverso rispetto a quello che mangiavi abitualmente prima di Mangia con me? Allora, io ho fatto dei grossi cambiamenti, devo essere sincero, nella fattispecie io ho veramente eliminato tutti i dolci come mi era stato indicato, e poi io mangio tutto quasi con pochissimo condimento, mangio cose ricche o di proteine o di carboidrati, in modo tale che tutto ciò che mangio venga utilizzato anche nella mia attività sportiva, quindi mangio cose molto semplici ma che poi mi danno degli ottimi nutrienti. Che danno dei messaggi molto forti e ben chiari al tuo metabolismo. Siamo soddisfatti, dottor Ungaro, professor Tirelli? Prima dei mercati possiamo fare i complimenti al nostro Fabio? Assolutamente, direi che ha fatto un'ottima operazione e Fabio, essendo giovane, ha anche potuto approcciare un cambiamento, diciamo, un po' più drastico. L'importante è mantenerlo nel tempo. Ora è già passato un po' di tempo e vedo che i risultati ci sono, bisogna continuare così. Fabio, noi aspettiamo la torta di nocciole che tu non mangi più ma che noi mangiamo. Anche Filippa Oreggi, che è in regia alla parte tecnica, la gradirebbe molto volentieri. Un abbraccio a Fabio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Complimenti. Grazie a voi, buona energia. Essere e benessere. Sapete, quando il dottor Cox è di buon umore, emana una specie di vento rinfrescante che solleva il morale di tutti quelli che tocca. Oh, che giorno scoppiettante! Si conquista anche a tavola, perché esiste un legame molto stretto tra emozioni e dieta. Meglio, alcuni squilibri nutrizionali possono causare tristezza e sbalzi d'umore. Quindi, dottor Ungaro, con alcuni accorgimenti possiamo tirarci sul morale. Possiamo tirarci sul morale, ma ci sono anche delle situazioni in cui il morale lo buttiamo giù. Però se io per esempio ti chiedessi tra questi tre cibi qual è quello che ha un effetto peggiore sul nostro umore, cosa risponderesti? Latte, zucchero e uova. Qual è quello che ha l'effetto peggiore sul nostro umore? Latte, zucchero e uova. Prendetevi anche voi il tempo all'800 24 0024, chiamateci, dateci la risposta corretta, un po' argomentando, perché è abbastanza semplice. Io qua ho un libro magnifico per voi, si intitola L'arte della semplicità, ve ne ho già parlato, proprio perché anche col professor Tirelli dicevamo piccoli cambiamenti, cose semplici per migliorarci la vita. È scritto da questa francese, Dominique Leroux, che si è trasferita in Giappone e ha un po' mixato la filosofia e lo stile di vita giapponesi con quelli occidentali. Ne viene fuori un manualetto che vorrei proprio che uno di voi ricevesse a casa, perché è ricco di suggerimenti interessanti e direi illuminanti. Dottor Ungaro, allora iniziamo a mettere a posto un po' l'umore. La dieta, abbiamo detto, intesa come un corretto stile alimentare, può avere anche delle ricadute positive sul nostro umore, se noi non facciamo di tutto, insomma, per diventare di cattivo umore. Che cosa dobbiamo fare? Ma insomma, direi che chi ci ha seguito nelle nostre puntate ha sicuramente colto in maniera molto chiara qual è la dieta che dà anche il buon umore. Credo che sia importante ricordarsi la stabilità di alcuni parametri metabolici, in particolare la stabilità di un parametro molto importante che è quello dell'insulina e della glicemia, di cui abbiamo parlato tante volte. E devo dire che da questo punto di vista è molto interessante anche un tema di cui si parla molto negli Stati Uniti, si è citato il termine comfort food, cioè quegli alimenti che danno in un certo senso un appagamento, una sensazione molto piacevole, mandano dei messaggi al nostro cervello, e la cosa interessante è che sono culturalmente molto diversi, quindi non c'è soltanto un fattore biochimico, ma anche un fattore legato a quello che è la cultura alimentare delle diverse nazioni. Allora, vogliamo fare un po' la lista della spesa insieme, perché in linea con noi abbiamo Stefano Polato. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. Buongiorno. Il nostro cuoco. Senti Stefano, fai attenzione a quello che ci racconta il dottor Ongaro, che ci fa un po' un elenco dei comfort food che dobbiamo frequentare più spesso a tavola per tenere sull'umore, e tu ci potresti preparare e suggerire una ricettina di quelle stile mangia con me, che piacciono molto. Dottor Ongaro, su che cosa puntiamo allora? Ma allora, diciamo subito che l'azione si esercita attraverso la stimolazione che questi alimenti danno sul nostro cervello e la produzione di neurotrasmettitori. Il più importante di questi neurotrasmettitori che riguarda l'umore è senza dubbio la serotonina, l'abbiamo sentita menzionare molte volte, è l'ormone del relax e l'ormone dello stare bene, del benessere, e di questo neurotrasmettitore si arricchisce il cervello soprattutto quando mangiamo cereali integrali, che permettono l'entrata all'interno del sistema nervoso centrale di un aminoacido che si chiama triptofano, che è il precursore anche della serotonina. Quindi cereali integrali, ok. Poi ci sono degli altri alimenti che contengono per esempio la tirosina, per esempio l'avocado. Tirosina. Esatto, per esempio l'avocado, le banane, che favorisce la formazione di dopamina, che è un altro neurotrasmettitore che è invece un po' alla base della sensazione di appagamento, diciamo. Sì. Poi ci sono le endorfine note anche... Certo, gli oppioidi naturali prodotti dal cervello. Esattamente, gli oppioidi naturali che sono noti anche a chi fa attività fisica, soprattutto di lunga durata, perché è una fonte di rilascio di queste molecole, e per esempio queste sono la produzione di endorfine favorita da un alimento molto noto e anche piacevole, che è il cioccolato. Però, per concludere, quello che volevo dire, che ho citato prima, è molto interessante, che se uno va a vedere la lista dei comfort food, per esempio, e confronta l'America con il Canada, viene fuori un dato stranissimo. Per gli americani il più importante comfort food è il famosissimo apple pie, la torta di mele, mentre per i canadesi è il bacon, un alimento completamente diverso. Dunque si può ipotizzare che l'azione cerebrale che l'alimento ha è in parte legata al rilascio di sostanze e di molecole, ma in parte anche legata a ciò che queste molecole incontrano in termini di gusto, culturalmente legato all'interno del cervello. In Italia probabilmente sarebbe la pasta il nostro comfort food. Non lo so, chiediamolo ai nostri ascoltatori, qual è il nostro, inteso come ascoltatori di Essere Benessere, comfort food? 800 24 00 24, insomma, paese che vai, comfort food che trovi. Intanto Stefano, hai delle indicazioni: cereali integrali, avocado, banane, cacao. Chissà che cosa ci preparerà il nostro Stefano Polato. Stefano, è una bella lista, una bella lista. Una bella lista, è intrigante. Professor Tirelli, muoviti che ti passa, muoviti e sorridi. Il buon umore si ottiene, a proposito di endorfine, anche attraverso il movimento. Certo, sappiamo tutti che muoverci stimola tutte quelle situazioni endocrine di cui il dottor Ongaro parlava, e direi che c'è un movimento di carattere fisico di cui tutti sappiamo, c'è un movimento anche di carattere energetico. Per esempio, si può aiutare l'organismo, il metabolismo in genere, ad attivare tutti i processi vitali attraverso la stimolazione di alcuni punti, direi. Un punto che è molto importante si chiama vaso governatore 4 e si chiama Tantien in particolare. È un punto che sta al di sotto del nostro ombelico, è a circa 3 dita sotto l'ombelico, e noi possiamo stimolare questa zona perché ha delle indicazioni incredibili. Ha delle indicazioni, diciamo, di aiuto al metabolismo generale che la medicina cinese indica come energia. Sì, energia totale, energia delle problematiche genitali, disturbi mestruali, infertilità, edema, dolore, leucorrea, emorragia, cioè c'è di tutto e di c'è più. Di tutto è un di punto più. Veramente incredibile che attiva le ghiandole endocrine. Come poterlo attivare, per esempio? Sì. Facilmente io pongo la mia mano al di sotto dell'ombelico e all'altezza del mio quarto dito trovo questo punto. In quella zona vado a massaggiare con movimenti orari e antiorari, utilizzando magari anche degli oli, come avevo già detto una volta, per esempio l'olio di iperico. È un ottimo, diciamo, antidepressivo naturale come coadiuvante nelle terapie diciamo mediche contro la depressione. E direi che questa zona, massaggiandola, proprio va a risvegliare, e si chiama tra l'altro questo punto barriera dell'essenza vitale, quindi già il nome è un programma. Quindi c'è un punto magico, l'energia si ritrova sotto l'ombelico, a quattro dita dall'ombelico. Sì, tre o quattro dita, diciamo, è proprio quella zona che viene detta zona Hara e che per esempio negli antichi samurai era la famosa zona per la quale nel momento in cui la disfatta della sconfitta doveva essere onorata con l'autoeliminazione, diciamo, gli stessi samurai puntavano la spada in quel punto per dire che era proprio il punto della vita. Allora, così fortunatamente non dobbiamo fare nulla di tutto ciò, di quello che facevano i samurai, ma al contrario rivitalizziamo questa zona. Tra l'altro è una zona che anche nell'atto sessuale, nelle nostre attività sessuali, viene stimolata anche col movimento, così come nella danza del ventre, tutte quelle situazioni sensuali che danno proprio l'aspetto della carica vitale. Quindi puntate il nostro, puntiamo a quattro dita sotto l'ombelico, concentriamoci lì e andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ma professor Tirelli, abbiamo chiesto a Stefano Polato di prepararci una ricetta per il buon umore. Anche lei deve prepararci un programmino. Essere e benessere. Cambiare stile alimentare. I chili si perdono, dottor Ongaro, ma l'importante è perderli gradualmente, ma ci guadagniamo anche in un buon umore, in energia. Mandare dei messaggi chiari e diretti al nostro organismo attraverso una dieta equilibrata e corretta ci fa recuperare benessere. Dottor Ongaro, è questo su cui vogliamo insistere oggi, proprio chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci quali cambiamenti hanno notato cambiando stile alimentare. Professor Tirelli, lei ha pensato a un programmino per noi? Sì, io direi che si può partire dalle cose giustamente più semplici. Per esempio, camminare in una data maniera può veramente attivare il metabolismo. Pensiamo allo sci di fondo e a quanti muscoli fa intervenire, praticamente tutti. Allora, ovviamente, arrivando adesso la primavera alle porte, speriamo che questa sia di buon auspicio per un tempo migliore a breve, io direi che il Nordic Walking, o camminare ad un passo sostenuto, magari con l'ausilio di bastoni, delle bacchette tipo quelle dello sci di fondo, sia uno sport che tutti possono praticare. In che modo? Io posso programmarmi e dire che per la prima settimana farò ogni giorno almeno 10 minuti di camminata veloce. Quando? Ma magari per esempio anche durante la pausa pranzo. Sì, certo. E allora, anziché rifugiarmi magari sempre in un locale dove mangiare, io posso aiutare la mia mente a focalizzarsi su un altro aspetto, il movimento. Quindi il contapassi sappiamo che è un ausilio, diciamo, importantissimo su questo, per questo obiettivo. Così come nella pausa pranzo io posso eventualmente anche dedicarmi ad un'attività che sia un pochino più che camminare, quindi un po' un correre, ma bastano 10 minuti. Io, se io ho un'ora di tempo, io so che 10 minuti, un quarto d'ora di corsa leggera già attivano il metabolismo. Questo lo faccio per 2 settimane, dopodiché ci fermiamo, professor Tirelli, perché chi vuole allenarsi con noi deve stare con noi. Noi allora per 2 settimane, 10 minuti... ogni giorno, giusto, professore? Sì, ho capito. Direi che il Nordic Walking è la cosa migliore in questo momento. A passo veloce oppure a corsetta. E noi ci possiamo sentire naturalmente sia in diretta che sulle nostre pagine Facebook per capire che cosa è cambiato. Iniziamo da oggi. Io è un po' che cammino, ma oggi prenderò proprio il tempo. Dottor Ongaro, Ci sono molti ascoltatori che ci stanno scrivendo, ad esempio, mi dicono leggete anche i messaggi, io lo faccio. Caterina: ho cambiato insieme a voi da maggio scorso, perso 4 kg, ho ripreso yoga, faccio gli esercizi quotidiani del professor Tirelli, ho preso energie, modificato la forma di glutei, cosce, e lo stomaco sta molto meglio e sono creativa, ma ora mi sento un po' stanca, arriva la primavera, ho bisogno di una scossa. Dottor Ongaro, diamo una scossa a Caterina o alle persone che hanno avuto un cambiamento positivo ma stanno attraversando un periodo di piatta. Beh, allora lì la stanchezza è uno dei fenomeni più comuni su cui si hanno anche dei risultati positivi col cambio di alimentazione. Poi chiaramente ci sono delle fasi dell'anno o anche semplicemente perché si sta iniziando un programma di attività fisica, l'organismo richiede un po' di adattamento in cui la stanchezza riemerge. Io sottolineerei soprattutto di stare attenti al sonno e alla qualità del sonno durante la primavera, perché uno dei sintomi più frequenti con l'avvicinarsi appunto della primavera e poi dell'estate è che la qualità del sonno comincia a essere meno buona, e anche in questo caso ci sono degli alimenti che possono aiutarci per dormire meglio. Ad esempio? Ad esempio me ne vengono in mente due che sono entrambi dei frutti, quindi assolutamente consentiti. Uno sono le banane, che sono ricche di potassio e magnesio, che hanno delle proprietà rilassanti sui muscoli ma anche sul cervello, e sono allo stesso tempo ricche di triptofano che, come abbiamo detto prima, è un precursore di alcuni neurotrasmettitori tra cui la serotonina e la melatonina. E la melatonina poi è anche molto presente nelle ciliegie. Bisogna aspettare un po'. Bisogna aspettare un pochino. Quindi ma adesso andiamo di banana, certo. Nel corso dell'estate ci aiutano, e la melatonina è ovviamente l'ormone che regola un po' i ritmi sonno-veglia. Dottor Ongaro, una domanda. Quando il peso non scende più e arriva questa sorta di stanchezza, può essere utile dedicare un giorno alla settimana, così rispondiamo ad alcuni ascoltatori, per una dieta un pochino severa, ad esempio solo proteine o solo verdura, o insomma dare questa sferzata all'organismo, o può essere controproducente? Ma no, può essere sicuramente utile, anche se io credo di più, come abbiamo detto tante volte, che sia utile mangiare correttamente sempre e piuttosto inserire di tanto in tanto una variazione in senso contrario, cioè sì. Attenzione che capita alle volte che quando io sto a dieta e sono molto controllato, piano piano il metabolismo si adatta a un introito calorico minore e quindi rallenta. In questi casi alle volte introdurre delle variazioni alimentari anche in eccesso possono aiutare ad un certo senso al risveglio del metabolismo, quindi magari di tanto in tanto permettersi qualcosina in più può addirittura avere una funzione di appagamento e quindi sì, alla lunga di farci stare più attinenti al programma alimentare, ma anche una funzione vera sul metabolismo. Abbiamo in linea con noi un'altra concorrente di Mangia con me della seconda edizione. Abbiamo Paola. Ciao Paola. Buongiorno a tutti. Ma come sta andando? Ah, benissimo, io ne risento soprattutto per il sonno e per l'umore. Non ho perso tantissimi chili, perché non è che ero... Non era quello il tuo obiettivo, sì, vero? Sì, però comunque adesso dormo molto meglio e sicuramente anche il mio buon umore ne risente. Allora, dai un consiglio alle nostre ascoltatrici. Seguite i consigli del dottor Ongaro, tutti quanti. Dottor Ongaro, che spottone, eh? Sì. Grazie Paola, buona giornata. Sì, buona giornata a voi. Stefano, sei pronto? Sì. Sì. Allora, che cosa c'hai preparato? Io ho scelto, fra gli ingredienti che il dottor Ongaro ha elencato, ho scelto il cacao, per due semplici motivi. Uno, perché ci stiamo avvicinando a San Valentino, quindi può essere una bella idea per la cena di San Valentino, dove il cacao non può mancare. E un secondo motivo è per chi ha deciso di rinunciare ai dolci, come il nostro Fabio, rinunciare o ridurre comunque l'introduzione dei dolci, non far mancare il cacao attraverso una ricetta salata. Sì. In questo caso suggerisco di comprare un bel pollo, magari che abbia visto la luce del sole, e tagliarlo a pezzi. Sì. E lo infarinate con farina integrale e via sul fuoco con olio extravergine di oliva e cipolla. Sì. Sfumate con vino bianco. Sì. A questo punto aggiungete 2 cucchiai di cacao amaro in polvere. Bagniamo con il brodo vegetale, insaporite con del peperoncino a piacere e via cottura per circa 20-25 minuti a seconda dei pezzi, la grandezza dei pezzi del pollo. E a questo piatto possiamo aggiungere durante la cottura delle cipolline borrettane. Buone le cipolline. In questo periodo sono buone. E ecco che abbiamo trovato una soluzione alternativa al dolce con il cacao. Con il cacao. Abbiamo in linea con noi Letizia, che ha risposto in modo corretto al nostro quiz, era lo zucchero. A Letizia faremo avere l'arte della semplicità. Un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, a Filippa Oreggi, un grazie alla parte regia, alla parte tecnica, e a Laura Vanossi in redazione. A domani. Essere e benessere.